Radio 24 Reportage. La scomparsa di Casaleggio e il futuro del Movimento 5 Stelle, di Cristina Carpinelli. Se ne va una persona che ha praticamente ci ha insegnato che la politica può essere fatta in maniera differente. Oggi è un omaggio, cosa vuoi che cambi? È per dire ci siamo. Ci siamo, ha dato 10 anni della sua vita per questo sogno e glielo riconosciamo, siamo qui. Il movimento è un simbolo, è una persona, è chi ha tracciato la strada. La perdita è familiare, la perdita è personale, sono i sentimenti di una persona e quello che è successo. Io non conoscevo Casaleggio, per dire, però sono qua a riservargli un tributo, un saluto di una persona che ha permesso questo, ha permesso di portare gente normale in Parlamento e a difendere e a portare avanti le istanze dei cittadini normali. Gridano onestà, alcuni piangono. Sono rimasti in centinaia giovedì mattina fermi davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano ad attendere che finisse il funerale di Gian Roberto Casaleggio per sciogliersi, per interrompere il lungo silenzio che ha accompagnato l'intera cerimonia e gridare la parola onestà più e più volte. All'interno della chiesa i familiari, gli amici, i parlamentari, gli attivisti e coloro che sono riusciti ad entrare passando dal metal detector. Ci sono i 5 del direttorio, Carlo Sibilia, Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Carla Ruocco e Roberto Fico. C'è Beppe Grillo, tutti visibilmente emozionati. Urlano onestà anche loro. Di Battista commenterà così. Io penso che non ci sia nulla di più bello al mondo che il giorno del tuo funerale, mentre esce la bara i cittadini per bene di questo paese, che sono tanti, cantino onestà, onestà. Questa è la più grande vittoria di un uomo straordinario, che ha permesso a tutti quanti noi, lui insieme a Beppe, di combattere per il benessere generale, per l'interesse dei cittadini, quello che non hanno mai fatto i partiti di questo paese. Su Roma, fino al marcio su Roma, è solo un movimento che va avanti all'infinito, no, per poi non ci sarò. Io non sono partito, un partito non ce l'ho. In molti si chiedono ora cosa accadrà del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti ripetono che tutto continuerà come prima. Vada come vada per il Movimento, lui in ogni caso ci ha fatto conoscere e ci ha fatto diventare cittadini consapevoli. Io però sono ottimista per il futuro, per il Movimento. Secondo voi reggerà? Ma noi abbiamo fatto, il Movimento ha fatto delle scelte giuste, che sono stato fare il direttorio. Poi c'è comunque Beppe Grillo, per cui non è come se fosse una sola persona, come c'è un altro partito che è molto caratterizzato da una sola persona, che se succede qualcosa a questa persona magari va in crisi. La mossa è stata giusta, la cosa è stata giusta, ci sono i nostri 5 giovani del direttorio, da noi uno vale veramente uno. Io penso che il Movimento da bambino diventerà, ed è già diventato ragazzino, adesso diventerà uomo. Io ho già espresso il mio pensiero. Da bravi figli dobbiamo dimostrare di essere adulti. Penso che quello che ho detto io in prima battuta, mi sembra che l'hanno scritto i parlamentari, l'hanno scritto i senatori. L'idea anche a distanza di 1000 chilometri è la stessa. Oggi dobbiamo fare di più. Casaleggio ci ha dato tanto, noi dobbiamo rendergli di più. Io faccio parte del Movimento, sono una 5 Stelle. Chi ti dice che è un 5 Stelle e non ha mai fatto nulla sul territorio, non ha mai studiato una legge, non si è mai preoccupato di come risolvere certi problemi, probabilmente è un simpatizzante, ma non è un 5 Stelle. È vero quello che ho sentito anche adesso mentre arrivavano molte persone, che vi state dando proprio molta forza tra di voi per andare avanti coi progetti e non lasciare che si creino delle tensioni interne dopo la morte di Casaleggio? Perché voi pensate che si debbano creare tensioni interne? Perché no. C'è questo pensiero? Me lo chiedo anch'io, sono molto sincera. Perché credo che sia comunque ragionevole che con la morte di un leader ci siano dei cambiamenti e che magari non a tutti vadano bene questi cambiamenti. E sicuramente ci mancherà sicuramente un punto di riferimento, questo lo senz'altro, ma noi siamo sempre stati autonomi

di correzione di posizione altrui che non con una propria capacità autonoma di creazione di proposte, idee e programmi, appunto, insomma, credo che tutto questo rappresenterà un problema. Sul futuro dei 5 Stelle parla ai suoi attivisti anche Beppe Grillo. Gian Roberto ha creato una miscela grandiosa, dice, ci ha lasciato un'eredità importante. Tutto questo ci porterà belle cose. Stiamo uniti, continua Grillo. Ma la preoccupazione mia e di Gian Roberto erano i finti amici che cercano di entrare nel movimento. Dobbiamo stare attenti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.